Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Un buongiorno cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Filippo Aureggi in regia. Investire sui giovani era il tema e il titolo ufficiale del quinto vertice tra Unione Europea ed Unione Africana che si è svolto nella capitale della Costa d'Avorio, Abidjan. Ma la denuncia del commercio in corso in Libia, dove migliaia di giovani delle regioni occidentali del continente, parliamo di donne ma anche di uomini, vengono catturati mentre compiono il viaggio verso l'Europa per essere poi ridotti in schiavitù e dunque venduti come merce, ha riportato l'attenzione generale anche di questo incontro sul tema della migrazione. Il vertice ha dunque prodotto l'impegno a creare una task force congiunta tra Unione Europea, Unione Africana, ONU per proteggere i migranti lungo le rotte della tratta, ovviamente con particolare attenzione alla Libia, e per accelerare i rientri volontari. Impegno che è stato preso in una riunione allargata a Paolo Gentiloni, quindi all'Italia, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Mariano Rajoy per la Spagna, l'alto rappresentante dell'UE, naturalmente Federica Mogherini, che non dimentichiamolo è anche il primo finanziatore in assoluto nel mondo per lo sviluppo in Africa, presenti anche il premier libico El Sarraj e altri leader africani, tra cui i presidenti di Niger, Congo, Brazzaville e i rappresentanti dell'Unione Africana. Insomma, un impegno di fronte ai flussi che si sono riversati verso l'Europa, ma anche all'interno dello stesso continente africano in cui si trova la maggior parte dei rifugiati, e di fronte alla minaccia del terrorismo di matrice islamica. È stato insomma ribadita la necessità di una partnership più stretta. Ma siccome queste parole le abbiamo sentite purtroppo abbastanza spesso, i principi si devono trasformare in azione. Si parla di un corpo militare e che potrebbe essere operativo già all'inizio del 2018. Abbiamo chiesto in questo senso un commento all'europarlamentare Pietrantonio Panzeri del gruppo Socialisti e Democratici, membro della Commissione Esteri e dei Diritti Civili. Ma è importante innanzitutto che ci sia stata una maggiore consapevolezza sull'esigenza di cambiare approccio nel confronto tra Unione Europea e Africa, perché fino ad oggi in qualche modo c'erano due atteggiamenti che bisognava assolutamente chiudere, evitare. Il primo è un certo paternalismo da parte dell'Unione Europea nei confronti del continente africano, e dall'altro un certo vittimismo da parte del continente africano nei confronti dell'Europa. Un nuovo approccio significa comprendere quali sono i problemi effettivi e le sfide che si hanno di fronte e cercare di affrontarli nel migliore di modi insieme. Questo è il primo dato in sé che potrebbe considerarsi positivo. Dopodiché è solo un primo passo, perché come si traduce tutto questo in un'azione strategica per affrontare queste sfide è ancora un tema da affrontare appunto con molta profondità di pensiero. Questo è il problema da affrontare, però bisogna anche qui avere consapevolezza che se non vi è una politica estera condivisa, con una sovranità maggiore da parte della politica comune europea, il rischio è che i singoli paesi guardino oggettivamente ai propri interessi. Il rischio dunque è quello che conosciamo, il limite, il vulnus è quello di non avere una politica estera di sicurezza comune, quindi una linea comune. Il risultato è che nella settimana che ha preceduto il vertice di Abidjan, singoli leader nazionali hanno legittimamente percorso il continente per sviluppare, favorire dei legittimi interessi nazionali. Quindi Gentiloni sulla rotta Angola-Ghana, non solo, ma dico Angola-Ghana perché è chiaramente una rotta di grande importanza petrolifera per l'Italia e per l'ENI, e il presidente Macron che in qualche modo ha ripercorso la linea della France-Afrique, cioè di quella tradizionale area di interesse appunto della Francia in Africa. Ma adesso torniamo invece a un tema classico dei nostri appuntamenti, e mi riferisco all'Ulster, o meglio l'Ulster è questa settimana, mi riferisco alla Brexit. Ho detto Ulster perché questa sta diventando uno dei temi sempre più caldi di questo grande capitolo. Sentiamo Leonardo Maisano. L'ostacolo nord-irlandese si alza minaccioso sull'accordo anglo-europeo, prologo al passaggio alla fase 2 del negoziato per la Brexit. Al termine di una settimana scandita dal monito del governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, esplicito nell'invitare le banche a rafforzare il patrimonio per far fronte alle incertezze prossime venture, il contenzioso anglo-europeo ha fatto progressi. L'assegno di Londra a Bruxelles sfiorerà i 50 miliardi, mentre l'accordo sui diritti dei cittadini UE in Gran Bretagna e britannici nell'UE sembra ormai definito. Entro lunedì, tuttavia, Theresa May dovrà aver superato un ostacolo che si sta dimostrando ostico. Che genere di confine potrà esserci fra la Repubblica d'Irlanda e l'Ulster? Oggi non c'è, e anche per questo la pacificazione dell'Irlanda del Nord regge da decenni. Ma con la Brexit il muro doganale si alzerà, tornando a dividere le terre e le anime di questa tribolata isola. Dublino minaccia il veto al summit di metà dicembre se non sarà stata trovata una soluzione che non spezzi l'isola, e il no di Dublino manderebbe in fumo ogni speranza di un rapido passaggio alla fase finale del negoziato sulle relazioni anglo-europee, uno scacco che minaccia l'esistenza stessa, in termini politici ovviamente, di Theresa May. D'altro canto, se Londra accettasse le richieste irlandesi e della Commissione, si troverebbe con un confine interno fra Ulster e il resto del Regno Unito, inaccettabile per tutti, soprattutto per gli unionisti irlandesi che consentono a Theresa May di avere la maggioranza in Parlamento. L'ultimo miglio del primo giro negoziale è il più doloroso e potrebbe far sfumare ogni speranza di accordo. Il prossimo bilancio europeo per il periodo 2021-2027, con cui si decide quanti soldi l'Unione riceverà dagli Stati membri e come li spenderà, è il primo dopo l'uscita dalla Gran Bretagna e dunque parte con un buco di circa 70 miliardi rispetto alla dote 2014-2020, che è di oltre 1.000 miliardi di euro. Non solo, l'Unione Europea si sta facendo carico via via di nuovi compiti che gli Stati membri hanno deciso di delegarle, partendo dal presupposto che è molto più efficace affrontare alcune questioni a livello comunitario anziché come singoli paesi: difesa comune, migrazioni, sicurezza interna e controllo delle frontiere esterne, cambiamento climatico, ricerca e innovazione sono le nuove emergenze. Per queste voci non ci sono ancora cifre precise, ma se ne sta discutendo e una prima proposta è attesa a gennaio. Il commissario Oettinger vuole raggiungere un accordo equo con gli Stati membri, accettabile per tutti, una parte di tagli a discapito dei paesi beneficiari e una parte di nuove entrate a carico dei contributori netti come l'Italia. Metà e metà per coprire il buco di Brexit, ma 80% dagli Stati membri e 20% dalla Spending Review per coprire i costi dei nuovi compiti affidati alla UE. Perciò il contributo nazionale dovrebbe salire di qualche decimale, dall'1% attuale all'1,05%, mentre i tagli colpiranno inevitabilmente le due politiche principali dell'Unione Europea: la politica agricola, per la quale potrebbe essere introdotto il cofinanziamento nazionale, e la politica di coesione con i fondi strutturali, di cui l'Italia è la seconda beneficiaria. Al di là degli scenari estremi, un'ipotesi realistica, secondo il commissario, è un taglio del 10% che avrebbe un impatto negativo soprattutto sulle regioni più ricche. Questo dunque è il momento di farsi sentire a Bruxelles per evitare decisioni troppo penalizzanti. Governi, parlamenti nazionali e regioni sono avvertite. Giuseppe Chiellino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto sul fronte molto, come dire, teso e anche ricorrente dell'utilizzo degli erbicidi e dunque delle sostanze chimiche in agricoltura, si è arrivata a una decisione sul tema del glifosato. I paesi dell'UE riuniti in comitato d'appello hanno votato a favore del rinnovo dell'autorizzazione dell'erbicida glifosato per i prossimi 5 anni. Sentiamo. È stato il no della Germania, lungo incerta, a far pendere infine la bilancia per il via libera all'utilizzo del glifosato in agricoltura. Col suo voto, il fronte a favore è infatti arrivato a rappresentare il 65,71% della popolazione europea. Ma anche se non si fosse votato a maggioranza qualificata, i contrari erano solo 9, tra cui Italia e Francia. Il rinnovo è per soli 5 anni. Mondo del biologico e associazioni ambientaliste insorgono comunque, e lo fanno, però per motivi opposti, anche gli agricoltori europei riuniti in Copa Cogeca. troppo pochi 5 anni, dicono. Le agenzie europee per la sicurezza alimentare e per le sostanze chimiche non avevano giudicato il glifosato potenzialmente cancerogeno, a differenza dell'OMS. I 5 anni sono un buon tempo per trovare alternative, sostiene Giovanni Lavia, membro della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. C'è un problema nel mondo agricolo, è che non ci sono alternative tecniche valide. La ricerca non produce un'alternativa, un erbicida di tipo sistemico, in grado di essere efficace, eccetera, eccetera. Non lo produce in pochi giorni o pochi mesi, ci vuole del tempo. I 5 anni si giustificano con questo intervallo temporale. Nulla vieta comunque che i singoli stati membri possano prevedere restrizioni. In Italia il glifosato resta vietato nelle aree frequentate dalla popolazione, come i parchi ad esempio, ma anche in campagna se utilizzato in fase di pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura. Continueremo la battaglia contro il glifosato, ha promesso intanto il ministro dell'ambiente italiano Galletti. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi torniamo per la seconda parte di Europa Europa. Europa Europa. Ben ritrovati da Gigi Donelli. Europa Europa riparte appunto in questo percorso della settimana europea, incontrando di fatto la commissaria Margrethe Vestager, danese, responsabile dell'antitrust, quindi come dire un dossier davvero importante, riguarda grandi decisioni, grandi affari, grandi questioni finanziarie. È stata a Milano in occasione dell'apertura, di fatto della cerimonia d'apertura dell'Università Bocconi, e Sergio Nava era lì e ci racconta tutto. Web tax, paradisi fiscali, tassazione delle multinazionali e dossier caldi in materia di concorrenza. La commissaria europea Margrethe Vestager, intervenuta martedì scorso all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Bocconi di Milano, traccia scenari ad ampio raggio in un contesto di grandi trasformazioni commerciali e tecnologiche che impongono velocità di reazione anche alle politiche comunitarie. La normativa italiana sulla web tax, attualmente in cantiere, è ritenuta interessante dalla commissaria alla concorrenza. The ideas are very, very interesting. Sono idee molto interessanti e abbiamo bisogno di proposte sul tema in questo momento, poiché non è semplice riuscire a capire come poter tassare queste aziende. Uno dei parametri potrebbe essere quello del fatturato, ma a quel punto si pone il dilemma su che tipo di soglie, poiché non tutte le aziende hanno le stesse caratteristiche. Ci sono anche aziende che creano valore senza avere profitti elevati, senza ricavi consistenti, e quindi in questi casi bisognerebbe trovare una soluzione opportuna. Ritengo che le considerazioni dell'Italia siano molto interessanti e fonte di possibile ispirazione. Spero però che si possa trovare un approccio a livello europeo e ancora meglio se fosse a livello internazionale, perché si tratta di una problematica globale. Alla domanda di Radio 24 circa l'imminente approvazione di una blacklist europea sui paradisi fiscali e sulla necessità di indagare possibilmente anche sui paesi comunitari quali Malta, Lussemburgo, Olanda e Irlanda, che hanno dimostrato una gestione quantomeno opaca in materia di protezione dell'evasione fiscale, come insegnano Panama e Paradise Papers, la commissaria Vestager risponde che le ultime notizie sulla blacklist appaiono positive, poi aggiunge. Il meccanismo di questa blacklist è che se stiamo a vedere le società con attività sospette nei paesi inclusi nella lista, avremo un segnale e le autorità fiscali potranno iniziare ad analizzare quello che succede. Non erano state inserite le aziende europee perché sappiamo già cosa accade in Europa con il tax ruling e quindi conosciamo la situazione. Per la funzionalità di questa blacklist è importante avere la situazione dei paesi terzi, in modo che l'Europa sappia cosa accade. La commissaria Vestager si è augurata la rapida introduzione di una normativa che preveda l'obbligo per le multinazionali di fornire informazioni pubbliche su quante tasse pagano in ciascun paese, il country by country reporting. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto molta strada, ricordato, la cultura sta cambiando nelle autorità fiscali e nel business. Sul dossier ILVA la Vestager ha parlato della volontà di arrivare in anticipo rispetto alla scadenza legale a concludere l'esame dell'acquisizione da parte di Aminvest Co. la cordata con Marcegaglia guidata da ArcelorMittal. Vogliamo analizzare se nelle procedure ci sono aspetti che danneggiano i clienti che acquistano materiali in acciaio in Europa, ha spiegato la commissaria europea. Infine, su Luxottica, la Vestager dice: on Luxottica, well, we're still in the process. So che il procedimento è in corso. Si tratta di aziende molto importanti che hanno una leadership a livello globale nell'ambito delle montature e degli occhiali. Stiamo analizzando il dossier, ma non conosco ancora la scadenza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie a Sergio Nava. Adesso invece con Silvia Bernardi parliamo di industria, di lavoro e del nuovo pacchetto di norme antidumping approvato dal Parlamento europeo, che dovrebbe finalmente mettere un freno a quelle pratiche di vendite sotto costo responsabili di danni ingenti soprattutto nei settori dell'acciaio e della manifattura tradizionale. Silvia Bernardi ne parla con l'europarlamentare Salvatore Cicu, che ha seguito il dossier a Bruxelles. Oggi siamo con l'europarlamentare Salvatore Cicu per parlare di antidumping e delle regole messe in campo dall'UE per difendere industria e lavoro. Allora, partiamo dal contesto. Per semplificare, diciamo che per le nostre imprese il problema sono le importazioni extraeuropee a basso costo e un costo del lavoro europeo troppo alto, giusto? Per ovviare a questo tipo di sistema abbiamo dato vita ad un nuovo regolamento, ad una nuova metodologia che senza tener conto della distinzione economia di mercato, non economia di mercato, realizza delle regole che pongono tutti nella stessa condizione e quindi allo stesso nastro di partenza. Che cosa significa? Che nel momento in cui io, paese produttore ed esportatore, realizzo un costo di produzione, realizzo un prezzo che è distorto dal sistema del mercato, il sistema industriale europeo si difende chiedendo una compensazione con l'imposizione di dazi che realizzino la condizione di riportare il prezzo ad una parità di condizione, ad una parità di partecipazione. Quindi riguarda tutti i paesi, diciamo che non è una norma fatta ad esempio solo nei confronti, prendo come paese di riferimento la Cina. In maniera particolare sì, perché la Cina è quella che ha sottoscritto nel 2001 il protocollo d'intesa con l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Si era impegnata in questi 15 anni a realizzare quelle condizioni che servivano a fare un passo in avanti rispetto ad una condizione di regole uguale per tutti. Questo, a giudizio dell'Europa, del Parlamento europeo, la Cina non l'ha adempiuto. È chiaro che non è una attuazione di regole contro qualcuno, è un'attuazione di regole che vuole invece dare a tutti la stessa possibilità di concorrere nel sistema globale dei mercati. In questo nuovo pacchetto di regole avete aggiunto due nuovi criteri, quello sociale e ambientale. Cosa vuol dire nello specifico? Per quanto riguarda il sociale, abbiamo inserito il concetto di distorsioni significative relative al salario. E quindi l'esempio più concreto è quello che riguarda la Cina. Se la Cina realizza salari che non sono riferiti alla pienezza di diritti, che non danno vita ad una situazione che viene ricompensata ai lavoratori cinesi nella maniera più idonea rispetto alla qualità e alla quantità di lavoro che prestano, è evidente che ci sarà una distorsione di mercato rispetto al costo e al prezzo finale, ed è evidente che in quel caso la nostra industria potrà proteggersi, difendersi, richiamando il dumping su questo aspetto sociale che prima non esisteva. Lo stesso vale per l'aspetto ambientale, e cioè la Cina, così come gli altri paesi esportatori e produttori, saranno tenuti d'ora in poi a dimostrare che in termini ambientali ci sono le stesse condizioni che vengono attuate nel sistema europeo. Ancora cronaca, questa settimana si è parlato non poco della successione alla guida dell'Eurogruppo, una posizione strategica. Non a caso l'olandese Dijsselbloem ha svolto, come dire, una posizione di interlocutore, anche di forza, quando in questi ultimi anni si è parlato di conti, si è parlato di regime di controllo anche del debito. Insomma, lunedì una decisione sulla successione potrebbe non essere definitiva, ma potrebbe anche arrivare già al nome. Beda Romano ci ricorda la questione in questo servizio. È una partita ancora incerta quella che riguarda il nuovo presidente dell'Eurogruppo. Un voto dei ministri delle finanze è previsto lunedì prossimo qui a Bruxelles. a maggioranza, dovranno scegliere il successore di Jeroen Dijsselbloem. Entro oggi dovranno essere presentate le candidature. Stando alle informazioni raccolte in queste ore, dovrebbe candidarsi il ministro delle finanze portoghese, il cinquantenne Mario Centeno, con l'appoggio di Germania, Francia e Italia. Ciò detto, la partita non può dirsi conclusa. Altri candidati potrebbero sparigliare le carte. Sembra assodato comunque che il successore di Jeroen Dijsselbloem debba essere un socialista. Mario Centeno rispetta questa condizione. Il nome del ministro dell'economia italiano, Piercarlo Padoan, è circolato in questi giorni e non può essere escluso che torni alla ribalta da qui a lunedì. È ritenuto di gran lunga tra i ministri dell'Eurogruppo più competenti. Il nuovo presidente del consesso finanziario sarà chiamato, tra le altre cose, a completare il cantiere dell'unione bancaria, un progetto che da anni ormai è fonte di tensioni tra i paesi membri, ma che ciò nonostante ha progredito non poco. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ecco, con questa che di fatto è un'anticipazione di quello che andremo a trattare anche nel corso della prossima settimana, si conclude questa puntata di Europa Europa. Da Filippo Aureggi in regia, da Gigi Donnelli al microfono, l'augurio di un ottimo fine settimana. Naturalmente continuiamo come sempre sul fronte del web, www.radio24.it, Europa Europa, e per scrivere, nel caso voleste farlo, europa@radio24.it. Un saluto a tutti, l'appuntamento con questo programma è per sabato prossimo alle 12:30.